140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. La musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Per Pau, Mac, Drigo, Inni, Grita, 20 anni di carriera e non sentirli. Ora esce il doppio album che riprende 26 brani storici. Déjà vu. Déjà vu perché ti sembra di conoscerli fino in fondo, ma in realtà no, perché come vedi, insomma, questi brani magari composti anche 20 anni fa, alcuni hanno una seconda chance, quindi una seconda vita, è assolutamente plausibile tra l'altro, quindi il titolo diciamo che calza alla perfezione con il contenuto dell'album. Questa è stata la scelta, quella di per una volta di smettere gli abiti, rimaniamo in ambito così tessile, di smettere gli abiti da rocker, insomma, con i suoni aggressivi e la potenza dei watt degli amplificatori e mostrare, diciamo, un lato abbastanza diverso di quelli che sono magari dei musicisti che conosci da tanti anni. E quindi, così, fine. È un biglietto per le stelle, quello lì davanti a te. Cambierai la pelle, ma resta speciale, non ti buttare via. E passa anni di carriera sono 20 e passa anni di vita, e quindi quando riprendi in mano una canzone riprendi un po' in mano te stesso. Guarda, i Negrita sono una band abbastanza atipica, insomma, per tanti motivi, e tra le varie differenze, diciamo, che ci contraddistinguono, una è quella di avere un percorso particolare, molto trasversale, e una crescita costante, lenta ma ovviamente costante, e questa è una cosa che alla fine in 20 anni diventa, oltre che un pezzo di vita, diventa anche una mentalità, no? Quella di cercare di portare il tuo verbo, il tuo discorso sempre uno step più avanti di quello che eri fino a quel momento. Evidentemente la qualità delle canzoni è servita per fare questo tipo di esperienza, perché se non hai delle buone canzoni non puoi sicuramente rinnovarle e pensare di bleffare, insomma. E vabbè, credo che ci siamo riusciti, insomma. Fondamentalmente all'inizio avevamo una serie di dubbi, di punti interrogativi che venivano in giro con noi, ce li portavamo sulla testa, insomma, prima di iniziare questa avventura. Poi però, cominciando a calarci nella parte, ci siamo resi conto da tanti piccoli e grandi segnali che eravamo nella strada giusta, no? La strada che stavamo percorrendo era quella giusta. La gente arrivava a comprare i biglietti di corsa, cioè andavamo in sold out così da un giorno all'altro come niente. Gli arrangiamenti venivano fuori con una certa naturalezza, insomma. Abbiamo a volte veramente smembrato, decostruito proprio delle canzoni per poi ricostruirle quasi di sana pianta, e ok. Poi l'esibizione di data in data diventava sempre più bella e credibile, quindi evidentemente questa è la prova che, insomma, se hai un certo tipo di anima, un certo tipo di cultura, puoi permetterti anche svarioni di questo tipo, insomma, senza assolutamente mostrare il fianco, no? Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là. Tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse a motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Visto che abbiamo parlato del tour, avete fatto 35 date, appunto, grande successo, e ripartite. E non è una cosa scontata in un momento difficile, anche storicamente come questo. Vuol dire che la gente ha voglia di sentire la gente che sa suonare, e vuol dire che voi avete dei fan fedelissimi, fan che vi seguono in maniera viscerale, amorosa. Forse non siamo così, non ci siamo distinti per essere una band che fa musica di moda. In un certo senso questa cosa qua, che può effettivamente può suonare come un così, come una cosa quasi dispregiativa, effettivamente noi non abbiamo mai avuto attenzione per la moda, se non piuttosto per quelle che sono i classici della musica. Quindi prova a trasferire questo discorso appunto sul discorso, sull'aspetto della moda, cioè ci sono delle collezioni che durano una stagione, l'anno successivo non te le puoi più mettere, invece ci sono abiti classici che comunque fanno il loro effetto comunque sempre. Non solo la musica che facciamo noi, ma quella che ci ha sempre affascinato è quella che ha per l'appunto questa caratteristica qua, di poter essere ascoltata dopo decenni e comunque di risultare sì, espressiva al massimo. È in onda Radio Conga, dal centro della giungla. In questa raccolta ci sono 26 canzoni, ci sono alcuni che sono diventati anche degli inni, lo scrivete anche voi nella presentazione, ce le ricordiamo tutte, altre invece sono delle chicche. Come si fa a scegliere? Come si fa a scegliere solo 26 canzoni in 20 anni di carriera? Beh, non è facile. E in questo caso eravamo, tra virgolette, facilitati dal fatto che dovevamo rappresentarle con strumenti molto più limitati, nel senso con un range di colori, di suoni più ristretto, e quindi alcune sono state escluse per forza di cose, perché non erano assolutamente facili da rappresentare con chitarre acustiche et similia. Dopodiché la rosa era comunque vastissima e ci siamo concentrati sul fare comunque uno show dovevamo fare, lo spettacolo doveva essere rappresentato, quindi servono dei chakra, no? Dove per creare una scaletta, una playlist, servono dei punti chakra per cui devi soddisfare certe cose, e quindi alcuni pezzi conosciuti ce li dovevamo mettere per forza. Dopodiché eravamo invece liberi di dare sfogo al nostro gusto, senza limitazioni di alcuna sorta, e quindi sono venuti fuori anche pezzi che non erano neanche di seconda fascia, magari di terza o di quarta fascia, vuoi perché non sono mai stati spinti come singoli radiofonici, non hanno mai avuto un videoclip, magari la versione originale elettrica non aveva l'appeal che il pezzo invece si sarebbe meritato all'epoca, e quindi abbiamo avuto, diciamo, il coraggio, insomma, di scommetterci. E devo dire che alcuni brani, tipo, che ne so, Abbonanza, oppure Vai ragazzo vai, così Luna, ecco, brani che sono sempre stati relegati laggiù nell'ultimo banco, hanno ritrovato una luce nuova e magari sono venuti molto più fighi di altri che conosce mezza Italia, insomma. Che rumorfa la felicità, insieme la vita, lo sai bene, ti viene come viene, ma brucia nelle vene, e viverla insieme è un brivido, è una cura, serenità e paura, coraggio ed avventura, da vivere insieme. Insieme a te. Due brani inediti. Di solito un tour del genere, che sia unplugged o no, e una raccolta del genere fanno venire una gran voglia di cose nuove, in primis ai musicisti. La voglia di fare un disco c'è. Poi tornare sempre lì davanti alla gente. Vedi, ma che certo, siamo malati. Dei malati mentali. C'è? Sì, c'è. Beh, ovvio che c'è. C'è la voglia, anzi, a me mi girano un po' le balle perché queste settimane noi da mesi, quando eravamo in tour, dicevamo: ok, settembre è libero, ragazzi, possiamo comporre. Siamo tornati dalle vacanze. No, ragazzi, invece, controordine, settembre è completamente impegnato nella promozione. Perché noi pensavamo che un disco così, già dalla Universal stessa, non fosse cagato, preso in considerazione, insomma, come se fosse un nuovo disco di Negrita. Invece queste cose se la son legata al dito, insomma, stanno investendo su questo disco come se fosse il nuovo di Negrita. In realtà, così, io mi rendo conto, perché cioè, tutti noi ce ne rendiamo conto del perché, perché non è né un disco live, né un Greatest Hits. E non è una raccolta, non è niente, è tutte queste cose messe assieme con degli inediti, ma anche i brani vecchi hanno ovviamente sono tornati nuovi, cioè proprio veramente abbiamo fatto un'operazione di restyling e di restauro non indifferente, e questa cosa può essere la cosa che fa la differenza, nel senso che può veramente incuriosire gli ascoltatori, e per questo con la Universal, e non solo la Universal, ci stanno investendo molto, perlomeno molta attenzione, non molti soldi, ma molta attenzione. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Parole e dintorni, ufficio stampa, Milano. Ali di Libertà è il nuovo album di inediti di Massimo Priviero, a distanza di 6 anni dal precedente. Per il rocker, una nuova avventura. Faccio 25 anni di carriera a novembre, e esce l'album numero 13. È un album di inediti dopo qualche anno, e andiamo avanti con molta forza, con molta voglia ancora di fare musica e di comunicare senso al fatto che vale la pena di vivere, diciamo in termini più generali, ma di vivere attraverso le canzoni che si fanno, attraverso le cose che vuoi trasmettere. E spero appunto che di essere riuscito in questo album, spero soprattutto per la mia gente che mi segue, che viene ai miei concerti, e che quindi spero che siano contenti. Tu hai avuto una carriera da pazzi, Schizofrenica. ecco. Si dice schizofrenico. Allora, in Il mare, lo sa Dio quante volte poi sono caduto, quanti pezzi ho perduto della vita mia. Ne hai passati tutti i colori, sei stato il golden boy, la promessa, il successo, dimenticato, ritrovato. Come si vive con 25 anni di carriera sull'otto volante? Mi vedi abbastanza ancora che reggo, per cui sono ancora vivo. Si vive cercando, alla fine, lo dico in maniera magari che può arrivare banale, ma non lo è, cercando di essere il più possibile liberi e il più possibile veri, e di non pensare che il successo, per come comunemente inteso, sia un valore. Io non l'ho mai creduto, quindi ho sempre pensato che la cosa prima di tutto che arrivava era difendere quello che ero, le cose in cui credevo, il ragazzo che ero quando avevo 30 anni fa, quando avevo 20 anni, che suonavo per le strade, e poi che ho cominciato a fare dischi, che ho avuto la carriera un po' schizzoide, come dici tu, ma difendendomi, perché non difendi solo te stesso, ma difendi le cose in cui credi, e alla fine l'ha detto qualcuno di molto più importante di me, forse nella vita. L'unica cosa, la cosa che conta di più veramente è essere veri, e io questo è quello che ho cercato di fare. Sono il pezzo del mondo che cade nel sole, ma se un uomo domani ti chiederà, digli che sono le ali, io sono le ali della sua libertà. In questo album ci sono passato, presente e futuro. Io vorrei partire dal passato. Ci sono dei ricordi? C'è una famiglia, un amore, un passato, una terra? Sì, io non ho mai fatto un album così autobiografico, e andando avanti mi sono accorto alla fine che una volta si parlava di concept album, no? E che lo era diventato sempre di più senza che io all'inizio lo volessi. Quindi c'era questa cosa, c'è questa cosa. Tutti i frammenti fanno parte di della mia vita, ma è un tratto di vita in cui molti possono ritrovarsi, credo. Sicuramente si ritroverà chi mi segue, spero. Il presente è il presente tuo, ma anche il presente dell'Italia. Ti interroghi sul nostro paese, su quello che è diventato. C'è sempre, in qualche verso, in filigrana, c'è qualcosa che ci riporta al nostro oggi, proprio come paese? Accidenti, sì, tante volte, sempre, quotidianamente, con un misto di disperazione e di speranza che si susseguono, con un senso di arrabbiatura per il fatto che, ma che alla fine, se vuoi, anche questa crisi economica che stiamo vivendo da un po' di anni a questa parte, hai l'impressione che si ridurrà ad aver messo un paio di milioni di persone in più ai lati della strada, no? E che tutto poi ricomincerà come prima, quando invece probabilmente avremo davvero bisogno di cambiare tante, tante, tante cose. Hai parlato del presente, del passato, ti chiedo qualcosa del futuro, perché da una parte c'è una preghiera, questa sì. Madre proteggi, e quindi affidi il tuo futuro e il futuro di tutti a una preghiera. C'è la forza e il sogno in Libera Terra, ma c'è anche questo bacio da Dio del quale ti voglio chiedere un po' conto. A bacio da Dio è una canzone molto rivolta a un amico di tanti anni fa, e mi sembrava una chiusura di canzone. È una canzone fatta a chitarra, voce armonica, se vuoi particolarmente malinconica, anche se in realtà poi tutto l'album non ha quel tipo di tratto lì. Ed era un mio carissimo amico quando avevo 20 anni, che mi diceva, quando io ero ragazzo, ma vai e conquista il mondo, spacca tutto, tu. E quindi la frase alla fine che conta in quella canzone era fai quello che sai fare, fallo anche per me. E quindi però alla fine, siccome poi questa persona non c'è più, a un certo punto, come le persone che perdi lungo la strada, è venuta fuori questa cosa, legata a un ricordo di quando avevamo entrambi 20 anni e di quando lui era il mio migliore amico che avevo. Scala il tuo cielo e la tua voce sarà la mia. Alzati in piedi, scala il tuo cielo. Soprattutto un disco di canzoni nuove, o come si dice adesso, un'espressione che non mi piace, di inediti, è una nuova avventura. Adesso questa avventura che comincia, cosa sarà? Come la vedi? Come la stai preparando? Guarda, partiamo con il tour il 27 di ottobre dalla Blue Note di Milano, e da lì cominceremo a fare un primo pezzo di strada, faremo una ventina di concerti. Non lo so, arrivi alla fine di un album, come dicevi tu, in questo termine un po' brutto, ma comunque di inediti, dove sei un po' spremuto, se lo fai in un certo modo ti senti quasi senza energia, però poi ti ricarichi le pile, vai sul palco, e che è la dimensione più bella che hai, e cerchi di trasmettere questa forza e di ripartire con un altro pezzo di strada. Dove porta... non lo sai, ma in fondo è anche giusto che sia così. Te la giochi, ma non in termini di successo, te la giochi per quanto, soprattutto per la tua gente, questo disco, le canzoni che fai possono essere importanti o possono essere un pezzetto della loro vita. Allora anche la tua vita acquisisce un senso più importante di quello che magari può avere nel proprio quotidiano. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteri R24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.